La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della quota rosa. Insomma, ci occupiamo anche questa puntata di Islam, dei rapporti tra l'Islam e le donne. Partendo da un brutto fatto di cronaca, una giovane lapidata in Somalia dagli estremisti islamici. Ovviamente si parla di estremismo, non si parla di Islam per la maggior parte delle persone. Giustiziata perché adultera, nei disordini ucciso un bimbo. Allora, ricordiamo questo, un parentesi lanciato verso la ragazza per cercare di aiutarla e i fondamentalisti hanno cominciato a sparare. Insomma, una tragedia questa che è avvenuta in Somalia, una prima esecuzione dalla presa di potere delle milizie. Per parlare intanto questo scempio avvenuto, ricordiamo, in Somalia e poi anche dei rapporti tra Islam e il Vaticano e dei rapporti invece riguardo la posizione delle donne, abbiamo con noi l'onorevole Federica Mogherini, PD, segretario della Commissione Difesa. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo Marinella Perroni, presidente del coordinamento Teologhe Italiane. Buongiorno. Buongiorno. Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzione dell'Africa, Università Cattolica di Milano. Buongiorno. La prima domanda è per Federica Mogherini, PD, segretario Commissione Difesa. Intanto congratulazioni perché è stata appunto nominata segretario della Commissione Difesa della Camera. Che cosa può fare l'Italia per protestare contro queste esecuzioni che riguardano poi le donne? Ma sicuramente va ripresa una forte iniziativa per una moratoria generale per la pena di morte. Era un'iniziativa che il governo Prodi aveva intrapreso, devo dire la verità, sostenuta da tutte le forze politiche, e credo che l'Italia debba tornare a caratterizzarsi in modo molto forte su questo tema e sulla lotta alla tortura, perché pena di morte e tortura sono due piaghe che purtroppo affliggono moltissimi paesi ancora del mondo, e su questa battaglia veramente non credo che ci debbano essere distinzioni politiche. L'Italia può farla a nome di tutti e con tutta la politica unita per sostenerla. Diciamo anche che c'è un dibattito tra i teologi del mondo islamico, e infatti sull'effettiva legalità islamica della lapidazione. Il Corano non ne parlerebbe, al massimo prevederebbe frustate per gli adulteri, e invece la pratica viene citata in una hadith attribuito al profeta. Ma insomma, queste sono disquisizioni, perché anche in Iran, ricordiamo, esiste la lapidazione, quindi ogni volta che vanno al potere gli estremisti islamici si ritorna verso questa barbarie. Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzione dell'Africa, Università Cattolica di Milano, questa notizia è una notizia che l'ha sconvolta, oppure purtroppo è una notizia abbastanza consueta in quell'area? No, si tratta di un percorso di violenza che è iniziato da lungo tempo, e queste notizie che purtroppo provengono in maniera così sporadica, perché poi la comunicazione, le notizie che provengono dall'Africa in generale, in Italia e in Europa, sono sempre molto, molto poche rispetto alla quantità di eventi che accadono in quel continente, sono dei picchi, chiamiamoli, drammatici, di una costante e lunghissima barbarie, un orrore permanente che si consuma soprattutto contro le donne, contro i bambini, contro le fasce più deboli di una società che è una società completamente disgregata, perché noi sappiamo che la Somalia non possiede nemmeno più dei confini politici molto, molto fissati, no? Infatti, c'è un'assenza di Stato praticamente, no? È un paese che non ha più una sua identità. Queste milizie al potere come ci sono arrivate? È sempre il classico scontro tra etnie come avviene in Africa? No, beh, lei sa che nel gennaio del 2007 le forze etiopi hanno invaso la Somalia meridionale, no? E queste autodefinitesi o definite internazionalmente corti islamiche da Mogadiscio hanno spadroneggiato fino a tutt'oggi in tutta la zona, fino a arrivare ai confini con la regione degli Oromo, dove il Kenya in questo momento sta facendo un'enorme opera di prevenzione contro queste milizie, perché il conflitto civile non si estenda anche ai confini dello Stato vicino. Quindi io mi permetterei di dire che qui di musulmano e di radicale, di estremismo, non c'è praticamente nulla, perché queste sono semplicemente delle bande di assassini, delinquenti, punto e basta. Cioè non vedo nulla a che fare con la religione musulmana proprio. Sì, però lei ha ragione, e per carità di Dio, noi stiamo infatti denunciando una violenza contro una donna. Quello che però mi sorprende è che questa violenza, cioè non mi sorprende purtroppo, avvenga in un paese dove il 90% delle donne ha subito delle mutilazioni genitali. Questa è una cosa molto diversa. Mi spiega per cortesia. Sono perché, due cose diversissime. Allora, noi abbiamo un tipo di violenza in Africa che è una violenza che proviene dall'esterno, che è perpetrata come arma di guerra, cioè lo stupro è un'arma di guerra in Africa, viene usato in moltissime aree. La più enorme adesso di dramma totale è la Repubblica Democratica del Congo, dove nella regione di Kivu e Bukavu c'è una guerra in corso e dove vengono addirittura selezionati soldati malati, sieropositivi, per stuprare le donne. Quindi è un'arma di guerra vera e propria per umiliare un intero gruppo nei confronti di un altro. E in Corno d'Africa, dove si perpetrano questo tipo di violenze perché sono dei forti messaggi di dominazione, di guerra, e si colpiscono le fasce più deboli come le donne con questo tipo di modalità, che ripeto, secondo me, poi naturalmente ognuno ha la sua opinione personale, non hanno nulla a che fare con l'Islam e con la religione musulmana, perché queste sono delle violenze che sono fatte dai Shabab, sono dei gruppi ribelli, sono dei pazzi, sono quasi tutti anche sempre drogati fino agli occhi, non creda, sa? Quindi non sanno probabilmente nemmeno loro che cosa stanno facendo in quel momento. Infatti, tra le altre cose, secondo il tribunale, il sedicente tribunale, addirittura la donna avrebbe ammesso la sua colpa, non c'era nessun testimone, e ha proprio chiesto, questo è veramente ridicolo, di venire punita in base alla legge islamica, se non che la sorella poi dice non è vero, la donna che quando poi è stata condannata lei ha cominciato a urlare e non era assolutamente così, no? Arriviamo al paradosso. Ricordare i processi per stregoneria del Medioevo dell'Europa, no? Ma stiamo arrivando poi un po' proprio al paradosso. Perché se lei si ricorda i processi di stregoneria del Medioevo europeo, dei secoli più bui della storia dell'Occidente, tutte queste donne venivano condannate a morte dopo che avevano confessato, ma erano sottoposte alle più spaventose torture, quindi è ovvio che confessavano. Cioè non possiamo non immaginare che ci sia una parte di verità sicuramente molto molto nascosta. Comunque dicevo, c'è questa differenza tra un'aggressione che proviene dall'esterno, tra virgolette, cioè quindi non qualche cosa di interno alla società locale, e una violenza interna che si consuma nella pratica dell'escissione, che è una pratica spaventosa per le bambine, per le femmine, che è molto diffusa in quasi tutta l'Africa, in Egitto, in Sudan, in Corno d'Africa, in Africa centrale, in Tanzania moltissimo, che è una pratica che però ha delle radici sociali molto forti, molto difficili anche da cancellare, sulla quale i cooperanti, le organizzazioni internazionali, le missioni, moltissime istituzioni e organizzazioni lavorano e stanno lavorando con le donne dei villaggi, con le donne che decidono poi di praticare, perché è una cosa che si fa da una donna su un'altra donna per riuscire a convincerle a smettere questo tipo di pratica. Sì, però ecco quello che dà dei riflessi sul piano igienico-sanitario, una mortalità altissima da parto, e rovina la vita di centinaia di migliaia di ragazze e di donne definitivamente. Quindi questa è una cosa che è interna, l'altra invece sono degli estremisti esterni. Però insomma io la capisco, professoressa Nicolini, bisogna però sempre dire che purtroppo nell'Africa subsahariana poi le donne sono le maggiori vittime, almeno mi sembra così. Oddio, ci sono anche stati poi bambini soldati. La quota rosa. Si complica il dialogo tra cattolici e musulmani, e questa volta per colpa delle donne. Praticamente i vescovi italiani dicono l'Islam non rispetta i diritti delle donne. Al sinodo un invito alla cautela sul dialogo con i musulmani e al rischio il vertice che ci doveva essere tra cattolici e comunità musulmane di novembre. Quindi insomma i diritti delle donne nel matrimonio e nella famiglia che tra i musulmani non hanno la considerazione prevista dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Quindi da qui l'invito dei vescovi spagnoli anche a grande cautela per il dialogo con i musulmani. Suasbai, PDL, segretario della Commissione Affari Costituzionali, intanto congratulazioni per la sua nomina. Lei grazie. È musulmana, si sente un po' toccata da questa critica del Vaticano? Io intanto non sono di cultura musulmana, sono laica, non mi sento affatto toccata, io anzi dovrei dire un j'accuse ad alcuni che insistono con un dialogo solamente con alcuni estremisti. Con gli estremisti non si dialoga, perché finché non si rispetta i diritti della persona, i diritti umani, la violenza contro la donna, non si può sedersi neanche a un tavolino. Persone che non rispettano questi valori, non si può andare avanti. Anzi, meno male che si sono rese conto, anche se un po' in ritardo. Però si evita sempre di dialogare con i moderati, che ce ne sono moltissimi, e molti li evitano perché sono laici, perché vivono la loro religione in modo più tranquillo, più laico, più intelligente e meno fondamentalista. Ma noi l'avevamo avvertiti parecchie volte, come avvertiamo anche il governo italiano, che non faccia avanzare questo estremismo, che avanza purtroppo, basta vedere le piccole moschee che vengono costruite da sempre da chi? Da questi estremisti fondamentalisti che non rispettano i diritti fondamentali neanche in Italia, figuriamoci a quelli che vengono da fuori. Ma l'Islam per lei è discriminante nei confronti delle donne? Ma certo, alcune queste sì, direi di sì, perché più che altro non è l'Islam in se stesso, ma i musulmani fondamentalisti che sono contro le donne. Molte donne lavorano su questi temi, molte donne arabe veramente attivissime in Marocco, in Tunisia, in Algeria e anche altri paesi. Stanno andando avanti anche con difficoltà, stanno andando avanti contro questo radicalismo che, mi dispiace per il collegamento di prima, che si dice no, noi viviamo nel Medioevo, no, stiamo attenti, perché basta vedere le donne iraniane 20 anni fa, o direi 30 anni fa, come erano e come sono ridotti oggi. E purtroppo c'è un'avanzata forte del radicalismo islamico, studiata a tavolino, studiata con alcuni personaggi, fratelli musulmani, per riislamizzare in modo massiccio non solo il Nord Africa, che non ci sono riusciti, ma bensì l'Occidente. Ma una riislamizzazione radicale che non dialoga, ma noi stessi non dialoghiamo con questa gente, non abbiamo provato tanto tempo fa, ma ora non dialoghiamo con questi. Quindi personaggi. Lei dice bisogna prima escludere che ci siano queste frange estremiste, poi bisogna andare verso un Islam che a un certo punto riconosca i diritti della donna, come dice il Sinodo dei Vescovi, che i diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, perché come ci ha detto anche la professoressa Nicolini, nel Medioevo noi donne eravamo accusate di stregoneria, quindi oggi sono le donne islamiche a essere accusate di stregoneria. Pensa che sia un problema storico, cioè a una certa fase dell'Islam, visto che l'Islam è una religione più giovane? Non è la stessa storia, non è la stessa storia, mi dispiace, non è la stessa storia. E qui c'è un fondamentalismo islamico che durante l'inizio dell'Islam non c'era, anzi dava diritto alla donna. Purtroppo c'è un ritorno indietro, c'è un pensiero radicale, un pensiero aiutato molto da fondamentalisti ricchi, e stanno avanzando, ma non però io ritorno indietro, nel senso che non si dialoga con, se uno sa, di base non c'è rispetto dei diritti umani. Io lo dico non solo ai vescovi, lo dico anche a quelli che firmano trattati, quelli che firmano anche contratti miliardari, è quello lì dove si gioca tutto. Purtroppo quando si firmano tanti miliardi tutti se ne fregano dei diritti della donna o della persona. Quindi gli affari purtroppo alle volte poi vanno a avvantaggiare questi personaggi, ci denuncia lei. Allora, Mariella Perroni, presidente del Coordinamento Teologhe Italiane, questa presa di posizione del Sinodo nei confronti delle donne nell'Islam è una posizione molto dura? Sì, sicuramente è una posizione dura e ovviamente è fondata, parte dai problemi che sono nati per via dei matrimoni misti, della tutela dei figli, eccetera, insomma tutto quello che ha comportato spesso difficoltà per una convivenza e anche coesistenza, ma anche patti sociali come quelli del matrimonio tra cattolici e islamici. E se da una parte è vero che anche noi bruciavamo le streghe e certo la Chiesa ha sulla coscienza anche molte colpe nei confronti delle donne, è anche vero che oggi possiamo veramente dire e richiedere ad altri di non usare il nome di Dio per combattere i diritti delle donne, insomma, che sono diritti tra l'altro naturali, ovvi, non assolutamente imprescindibili ormai. Lei è presidente del Coordinamento Teologhe Italiane, quindi presiede un comitato di donne solo che studiano la Bibbia? No, non soltanto la Bibbia, cioè in tutte le ci vuole spiegare? Sono professoresse o dottorate in tutte le diverse discipline teologiche che hanno deciso di consorziarsi insieme in un'associazione proprio per tenere un po' desta l'attenzione alle questioni di genere, alle questioni soprattutto riguardanti le donne, perché è un dato di fatto, è vero che noi siamo usciti dal Medioevo, però è anche vero che tutte le volte che si innescano dei processi di imbarbarimento, chi paga le spese sono sempre le donne e i corpi delle donne, quindi noi siamo fuori, ma siamo fuori secondo me relativamente, perché tutte le volte il rischio è sempre questo, no? I corpi delle donne sono in qualche misura sempre il segnale di come stanno andando i processi di umanizzazione o di imbarbarimento dei diversi gruppi, delle diverse società. E purtroppo abbiamo sentito la professoressa Nicolini che ci denunciava il fatto che in Africa lo stupro è un'arma di guerra. Mariella Perroni, un'ultima domanda su questo coordinamento teologhe italiane. È composto solo da teologhe cattoliche o aprite anche ad altre religioni? Dunque, non soltanto cattoliche ma teologhe cristiane, quindi anche delle altre tradizioni religiose cristiane. C'è anche un interesse, almeno una disponibilità, un'attenzione, alcune di noi lavorano insieme a teologhe anche islamiche, che hanno partecipato per esempio al forum delle donne islamiche adesso a Barcellona, cioè per quanto è possibile condividere una analoga ricerca per esempio sui testi sacri o una riflessione sul carattere, il ruolo, la funzione della donna all'interno dei gruppi religiosi, allora anche con lì dove è possibile, con tutte quelle con cui è possibile spartire insomma una ricerca del genere. A volte c'è stato richiesto addirittura dalle autorità civili di coordinarci insieme per qualche progetto a donne di diverse religioni che appunto avessero in comune con noi l'attenzione alla questione delle donne nel momento in cui non si vuole rinunciare a una fede religiosa. Ecco, le donne islamiche hanno denunciato, le hanno detto magari off the records, come si dice, le hanno detto qualcosa che per loro è importante che arrivi come messaggio? Ma guardi, le donne islamiche poi sono un continente molto frastagliato, come sono anche le donne cattoliche o le donne protestanti, nel senso che poi ci possono essere donne assolutamente, forse è forte dire asservite, ma comunque che sono dentro il sistema e che lo difendono a spada tratta, come ci possono essere donne che si sforzano di trovare un approccio critico alla propria tradizione religiosa, compresa quella scritturistica, quella coranica, quindi esattamente come all'interno delle tradizioni cristiane, e ci possono essere donne che invece hanno volutamente, dichiaratamente lasciato l'appartenenza religiosa proprio perché è incompatibile con la vissuta come incompatibile con l'affermazione dei diritti non dell'uomo ma dei diritti umani, cioè dei diritti specifici anche delle donne, di uomini e di donne. Abbiamo citato la dichiarazione appunto dei diritti dell'uomo e della donna. La quota rosa. La morte per pietre è oggetto da tempo di una campagna condotta dall'Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani. I pochi paesi che lo prevedono, Arabia, Nigeria, Yemen, Pakistan e Iran, di fatto non la utilizzano da anni, ad eccezione del Pakistan. In regioni fuori dal controllo statale, come abbiamo visto, è appena avvenuto in Somalia che una donna di 23 anni è stata lapidata. Allora, abbiamo parlato di moratoria con lei, onorevole Federica Mogherini del PD, segretario della Commissione Difesa. Avete intenzione di proporre nuove proteste, di cercare in qualche modo di aiutare le donne di questi paesi? Ma noi abbiamo fatto anche in passato, non soltanto diciamo così come parte politica, ma anche insieme a moltissime realtà della società civile, le tante ONG che operano in Africa e che conoscono la realtà molto meglio di quanto possiamo fare noi, delle campagne e sul luogo e anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, perché io credo che sia importante non fare confusione. Diceva prima molto giustamente, credo, la professoressa in collegamento da Milano, che non si tratta qui di religione, ma si tratta semplicemente di strumentalizzazione politica a fini politici di cose che oltretutto, appunto, io credo nell'Islam sia molto discutibile ritrovare. Ogni religione contiene in sé dei principi, dei valori, un'etica che credo possa essere utile per lo sviluppo di qualsiasi società, ed ogni religione purtroppo in diverse fasi storiche può essere soggetta a distorsioni o a strumentalizzazioni volta a volta politiche piuttosto che militari o sociali che ne deturpano in qualche modo i tratti. Credo che siamo in presenza in questo caso proprio di questo, cioè di non fare confusione tra ciò che è l'Islam come religione e ciò che sono invece le società e i politici che usano l'Islam per giustificare a volte comportamenti che con la religione non hanno nulla a che vedere. In Somalia sappiamo la guerra dura da anni, lo Stato di fatto non esiste, quella che avviene lì è di fatto una vera e propria guerra dove appunto l'Islam, la religione, viene semplicemente utilizzata in modo strumentale. Ogni volta credo che ci sia una confusione tra il campo della politica, dell'amministrazione, delle regole, della convivenza civile per tutti i cittadini e dall'altra parte invece la gestione dei principi della religione, tutte le volte che questi due campi si confondono, credo che si confonda anche un po' la nostra capacità di leggere con serenità e con laicità la realtà. Ecco. Dovremo anche, credo, aiutare anche le opinioni pubbliche mondiali a capire come sono effettivamente le cose. Lei che cosa pensa di questa posizione dei vescovi sul fatto che l'Islam non rispetta i diritti delle donne? Io non credo che sia l'Islam di per sé a non rispettare i diritti delle donne. Consideriamo che tutte le religioni, credo che qualcuno lo dicesse prima, purtroppo contengono alcuni precetti o alcune indicazioni che possono essere lette di volta in volta come degli ostacoli o per la realizzazione piena dei diritti delle donne o per una forma di discriminazione. maggiore o minore nei confronti delle donne. Questo purtroppo c'è in tutte le religioni, c'è anche nella religione cattolica. Credo però che quello che è vero assolutamente è che in alcune delle società a maggioranza islamica esistono regimi politici che effettivamente sì, non solo non riconoscono i diritti delle donne, ma non riconoscono neanche a volte i più basilari diritti umani, perché non dimentichiamoci che in alcuni di questi paesi non soltanto i diritti delle donne, ma anche i diritti degli uomini e dei bambini non vengono ovviamente rispettati, i diritti politici, i diritti civili, i diritti sociali. Quindi non nascondiamoci dietro ad un alibi, esistono dei problemi politici in molti paesi del mondo. Però alcuni sono questi... anche religiosi, io mi permetto di dire che riguardo all'Islam la maggior parte delle volte sono le donne poi a essere oggetto di violenza. Sicuramente, però anche in quei paesi viene dalle donne molto spesso la riscossa. Pensiamo a un paese come l'Iran e al ruolo che Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, può avere lì, alla quantità di donne che sono attiviste per i diritti umani e dei propri stessi diritti. E pensiamo appunto, come si diceva prima, al fatto che 30 anni fa, 40 anni fa, l'Iran era un paese dove le donne avevano un ruolo sociale ed economico e anche politico molto avanzato, ed era lo stesso paese, era la stessa religione. Nel frattempo c'è stato un cambiamento politico radicale, quindi credo che anche questo, poi io ho studiato, a parte il fatto di aver fatto politica, ho studiato l'Islam e mi sono laureata proprio sul rapporto tra religione e politica nell'Islam, quindi per me è un pochino un salto nel passato. Non pensiamo che vuol dire che sarà molto spesso nostra ospite. Molto volentieri. Non è soltanto una questione di religione, è una questione a volte di dinamiche politiche nei paesi che hanno quella religione. Pensiamo a quanto possono essere diversi paesi a maggioranza musulmana, pensiamo alla Turchia e pensiamo appunto all'Arabia Saudita, pensiamo al Marocco, all'Algeria, paesi tutti a maggioranza islamica, eppure musulmana, eppure politicamente anche in termini di rispetto dei diritti dell'uomo profondamente diversi. Beatrice Nicolini, che cosa ci racconta di queste donne anche africane che cercano di lottare per i propri diritti e per i diritti dei propri figli? Ci sono dei movimenti femminili? Sì, io sono d'accordo con le relatrici, che trovo veramente di un'enorme lucidità nell'analisi e nell'identificare le problematiche. Il benessere, lo stato di civiltà di un paese si valuta da come vivono le donne in quel paese, no? Quanto stanno bene le donne in quel paese si rispecchia nel livello di civiltà del paese stesso. E quindi noi, è vero, abbiamo un continente africano immenso, con una diversità al suo interno, religiosa, sociale, politica, economica immensa, che così come hanno detto giustamente le esperte, così come la definizione di religione musulmana, non si può ridurre a delle piccole specificazioni, perché c'è una diversità così immane che veramente sarebbe folle pretendere di fare un esempio di questo tipo. Quindi le donne nel mondo musulmano sono molto dinamiche, molto attive, come diceva la dottoressa, si muovono dall'interno per cercare di migliorare la loro vita e la loro società. E c'è una serie di movimenti femministi che partono soprattutto in questi ultimi anni dai paesi del Golfo, dall'Arabia Saudita, che sta combattendo delle lotte veramente molto grandi anche a livello governativo per riuscire a cambiare delle leggi che le riguardano, come il divorzio, come il diritto di successione e varie anche leggi che limitano oggi la loro libertà. Quindi sicuramente in quest'area del mondo le donne si stanno muovendo, ottenendo anche degli ottimi risultati considerato il contesto sociale in cui vivono. Per quanto riguarda l'Africa, l'Africa senza le donne sparisce ancora di più, nel senso che in Africa le donne fanno tutto, lavorano 17-12 ore al giorno, non si fermano mai, non hanno nessun aiuto in generale se non la loro solidarietà, sono affidabili nei prestiti di microcredito e quindi tutti i progetti di microcredito femminile vanno quasi sempre a buon fine, perché le donne restituiscono il prestito e sono la speranza del continente. Penso che anche per quanto ci riguarda, se non ci fossero le mamme in Italia, le donne in Italia, andremo ancora peggio di quello che stiamo andando adesso. quindi stanno facendo un lavoro eccellente, pagano in prima persona il prezzo dell'inciviltà, del non rispetto dei diritti umani, e lo pagano tutto, come stiamo vedendo tutti i giorni, ma nello stesso tempo non è tutto così orribile, terribile, c'è una speranza. Io per mestiere mi occupo di tematiche, insomma, in grande maggioranza molto molto terribili, e però voglio rimanere sempre comunque ottimista, perché comunque ci sono delle possibilità, ci sono delle possibilità di riscatto, ci sono questi movimenti femministi, ripeto, importanti, che influenzano anche grandi aree, non solo arabe ma anche africane. Quindi è solo dall'interno che si possono cambiare le cose. Certo. Insomma, una nota di ottimismo, abbiamo addirittura parlato di movimenti femministi, io non osavo dire tanto, ho detto movimenti femminili all'inizio. Swazbai, PDL, segretario della Commissione Affari Costituzionali, come si riesce, che cosa bisogna fare per lottare affinché le donne nell'Islam e anche le donne islamiche in Italia abbiano uguali diritti degli uomini? Ha detto la professoressa Nicolini, adesso le donne si muovono, ci sono attiviste femministe, ci sono l'imprenditrice, tante donne che si muovono tantissimo, devo dire, anche con difficoltà, però c'è questa volontà di cambiare le cose, e che purtroppo, ecco, se non era per la vostra trasmissione di oggi, della signorina o la signora Aisha morta lapidata, nessuno ne ha parlato, neanche le donne in politica. Io li sto aspettando che una di loro scrivesse due paroline su questa morte, nessuno ha detto nulla, però sono fiduciosa, vorrei insomma pensare al futuro, però vorrei pensare anche al passato, perché solo nel 2006 le donne della sinistra non hanno votato la legge contro l'infibulazione in Italia. E questo è vergognoso, quando le donne in Marocco, in Tunisia, altri paesi combattono contro l'infibulazione, in Egitto, in Italia qualcuno ha osato di dire è la loro tradizione, perché ci dobbiamo entrare nella loro tradizione, e questa miopia, questa indifferenza, che la loro cultura, l'Islam non è niente, non ce l'ha detto che l'Islam è una religione dangereuse, come si dice, non lo è, però ci sono i musulmani, e questa è una realtà, ci sono estremisti, ci sono dei radicali che fanno la politica, c'è. Quindi bisogna sempre contro la donna. Ecco, bisogna quindi sempre lottare per i nostri diritti. Un'ultima domanda, perché siamo proprio in chiusura, una svolta rosa nel sinodo, la Bibbia letta dalle donne. Tra le proposizioni approvate dai padri sinodali e consegnati al Papa Benedetto XVI, ce n'è una che chiede il lettorato per le donne, fino ad oggi riservato solo agli uomini. Si tratta cioè di autorizzare le donne a proclamare le letture bibliche durante le celebrazioni liturgiche, una cosa che già è nella prassi però. Marinella Perroni, che cosa vorrei dire? Che mi fa un po' sorridere l'enfasi che si dà a queste cose che sono nella però prassi. Però sono divertenti, almeno finiamo con una cosa rosa della religione cattolica. No, ma mi lasci dire, difatti io sono molto contenta di questo. Quando l'istituzione ratifica una prassi, questo vuol dire molto, Vuol dire moltissimo, perché significa veramente che è diventata una prassi che fa a questo punto statuto, fa legge, fa coscienza collettiva, quindi io sono molto contenta della proposizione del sinodo. Voglio dire, l'istituzione di solito non crea, non inventa, ma nel momento in cui ratifica, riconosce e dà forza a una prassi, questo è importantissimo per un corpo religioso, quindi benissimo. Allora ringrazio Beatrice Nicolini, docente di storia e istituzione dell'Africa all'Università Cattolica di Milano, Marinella Perroni, presidente del coordinamento teologhe italiane, Swazbai, PDL, segretario della Commissione Affari Costituzionali, Federica Mogherini, PD, segretario Commissione Difesa. La quota rosa. In Ministro, intanto cominciamo dall'attualità. Il Premier la indica come possibile portavoce del governo, una donna che dovrà riferire l'operato dell'esecutivo, una grossa responsabilità. C'è del vero in questo, c'è del vero nel fatto che c'è l'idea di farmi occupare della comunicazione del governo. L'altro giorno sono stata al Preconsiglio per questo motivo. Dico subito che è un percorso riguardo al quale non sono stati ancora definiti e stabiliti i tempi. Credo che la cosa importante da sottolineare stia ancora una volta nella volontà che Silvio Berlusconi dimostra di voler fare affidamento sui giovani, di voler valorizzare i giovani, non relegandoli a ruoli marginali, ma affidando loro ruoli di rilievo, ruoli di primo piano. Lo ha fatto in questo governo, per esempio, affidando l'incarico di Ministro della Giustizia a un giovane come Angelino Alfano, che si trova quotidianamente ad affrontare grandi problemi, a risolvere problemi che saranno poi decisivi per il futuro del nostro paese. Angelino, così come gli altri giovani nel governo, come Maria Stella Gelmini, sta dimostrando grande capacità e stanno cercando di affrontare e di risolvere questi problemi anche appunto con grande passione. Un libro sulle donne, donne tutte quante però di destra, conservatrici. Lei parla anche di Tizi Livni, un paragone con Golda Meir, per esempio. Qual è la differenza? Più che di differenze parlerei di continuità, perché forse per la prima volta dopo Golda Meir, che è stata una straordinaria donna, il processo di pace in Medio Oriente passa per le mani di una donna e credo che possano veramente essere le mani giuste. Sara Palin però invece è finita sotto i riflettori per aver speso per l'abbigliamento. Ecco, in questo per esempio è una cosa vezzosa per le donne. Come si veste un ministro? Che cosa offre il partito a questo proposito, se ci sono delle differenziazioni tra uomo e donna? Iniziamo a occuparci anche di quanto spendono gli uomini e di come si vestono gli uomini. Questo scandalo per i vestiti è una cosa molto americana? No, è una cosa molto maschile e maschilista, che succede anche altrove, succede anche in Italia. Credo che Sara Polin abbia avuto il grandissimo merito di monopolizzare una scena, di ribaltare una scena politica che era stata monopolizzata da Obama. Personalmente credo che se McCain desse più spazio in questi ultimi giorni di campagna elettorale alla Palin, probabilmente insomma riuscirebbe a guadagnare anche qualche punto di consenso in più. Qual è di queste donne quella che l'ha colpita di più? Sono tutte donne straordinariamente coraggiose. Più che la donna che mi ha colpito di più, mi ha colpito il loro coraggio. Le quote rosa sono necessarie? Le quote rosa potrebbero essere necessarie in una fase di transizione per riequilibrare una situazione che è una situazione evidente di squilibrio tra rappresentanza femminile e rappresentanza maschile. È un'idea che non mi piace, quella che una donna ricopra un incarico perché è stato imposto, perché è una quota. La donna che è entrata in Parlamento, che entra in Parlamento in virtù delle quote rosa, sarà sempre bollata come una quota e non come una politica che è lì perché ha voglia di fare, perché è brava e competente. Quindi credo che la grandissima battaglia da fare sia una battaglia culturale che vada combattuta soprattutto all'interno dei propri partiti, per fare in modo che alle donne vengano dati spazio e possibilità per mettersi in gioco e per correre alla pari con gli uomini. E come abbiamo sentito in questa intervista, Mara Carfagna è diventata anche scrittrice, la nostra ministra delle pari opportunità. Stelle a destra, Alberti editore, 8 ritratti di grandi donne in politica, da Margaret Thatcher a Sarah Palin, passando anche per Angela Merkel e poi per Condoleezza Rice e Tizi Livni. Ovviamente tutte donne per il ministro delle pari opportunità, donne di destra. E veniamo invece ad un'iniziativa del nostro giornale Il Sole 24 Ore, che presenta 100 grandi idee di management, il meglio del Harvard Business Review in CD-ROM. Giovedì 30 ottobre ha debuttato in edicola con il nostro giornale Il Sole 24 Ore proprio 100 grandi idee di management, i 100 migliori articoli pubblicati tra il 2007 e il 2008 da Harvard Business Review Italia. E ovviamente c'è anche un bellissimo articolo che riguarda le donne e il labirinto della leadership. Quando si tiene conto di tutti i fattori, un nuovo quadro del perché le donne non riescono mai ad arrivare, o poche volte, ad arrivare nelle stanze dei bottoni. Non è il soffitto di vetro, ma la somma di tutti gli ostacoli lungo il cammino. Abbiamo con noi per commentare questo articolo Marina Catena, che ha lavorato 7 anni alla Commissione europea nel settore degli aiuti umanitari, umanitari e oltretutto ha lavorato per missioni di pace, è anche autrice di Una donna per soldato, edizioni Rizzoli. Insomma, il percorso ad ostacoli delle donne è così duro? Beh, guardi, è duro sicuramente. Io poi ho sfidato, se vuole, un mondo prettamente maschile, nel senso che sono diventata anche un soldato, appunto come tenente dell'esercito italiano, riserva selezionata. Quindi ho sfidato un mondo da sempre maschile, l'ho potuto fare comunque grazie al fatto che l'Italia aveva poi approvato appunto la legge del 99 che apriva dunque le forze armate italiane anche a noi donne, ma sicuramente è stato un percorso ad ostacoli. L'Italia è stata l'ultimo paese ad aprire all'interno della NATO anche alle donne, ma l'abbiamo fatto forse con una consapevolezza, abbiamo appreso molto dagli altri paesi, l'abbiamo fatto bene, devo dire, i risultati sono eccellenti. Abbiamo in linea anche con noi una consigliera del PD di Firenze, Lucia Matteuzzi, che ha proposto a Firenze le quote rosa nella toponomastica, cioè metà strada dedicata alle donne. Troppa sproporzione, bisogna cambiare. Solo nel 29 giugno del 2007 Milano ha dedicato un giardino alla scrittrice Oriana Fallaci, no? Lei che cosa propone? Quali sono le donne che propone diventino il simbolo di Firenze a questo punto? Io non ho dei nomi particolari da proporre, ho solo proposto che la commissione, tra i criteri per scegliere chi dovrà rappresentare le strade della città di Firenze, da ora in avanti, quindi per le nuove strade, si tenga conto della differenza di genere e quindi anche le donne siano rappresentate. Io personalmente ho proposto il nome di una signora che è stata vice sindaco della nostra città e che a suo tempo era stata anche eletta alla Costituente nel 1946, la onorevole Bianca Bianchi. Quindi una nostra madre costituente, diciamo. Perché una nostra madre costituente. La città di Firenze aveva già approvato qualche mese fa anche il nome di Oriana Fallaci, a cui sarà intitolata una strada prossimamente. Così come mi riservo, stavo facendo una ricerca insieme alle mie colleghe che fanno parte della Commissione Pari Opportunità, per proporre nei prossimi giorni una serie di nomi di donne che hanno contribuito alla vita della nostra città. Io ovviamente lo faccio da un punto di vista scegliendo nella politica, però ci sono moltissime donne anche nel campo dell'università che stiamo valutando di proporre alla nuova commissione. Quindi non solo Beatrice? Non solo Beatrice. C'è un lungo elenco di nomi che nel corso degli anni sono stati via via approvati, ai quali però non è stato dato seguito e quindi noi vorremmo, a partire da quelle che sono le donne, poter proporre intanto quelle per le nuove strade della città. Amelia Pincherle Rosselli, per esempio, andrebbe bene? Sicuramente, sì. La madre dei fratelli Rosselli. Madre dei fratelli Rosselli. Ma anche drammaturga. Io proporrei, come direbbe Natalia Ginzburg, addirittura la moglie di Dante, Gemma Donati, si ricorda? Gemma Donati. Che noi stimiamo per altri motivi, perché sarei sopportato malgrado lui osannasse Beatrice. Ovviamente noi vogliamo anche fare un'ultima domanda a Marina Catena. Una donna per soldato, qual è un aspetto che l'ha fatta riflettere? Ma innanzitutto è simpatica e mi congratulo per questa iniziativa molto, molto bella, devo dire, alla quale, se posso permettermi, mi farà piacere contribuire, nel senso di darvi nomi di donne che in prima linea si occupano di difendere la pace. Quello che noi donne facciamo in prima linea, io ho avuto appunto modo di fare 2 anni di Kosovo, Iraq e Libano, dal quale sono rientrata, abbiamo un ruolo di prossimità con la gente, non solo come donne soldato, ma anche come operatrici umanitarie. La donna è un, se vuole, ha una capacità di avvicinarsi, di dialogare con la popolazione civile, ma non soltanto perché, tra virgolette, ha questo istinto materno, ma perché poi ha una sensibilità che le permette di essere un vero radar della sicurezza stessa di un popolo. In Libano noi abbiamo formato, per esempio, il primo gruppo di tutte donne soldato che andavamo ad incontrare la popolazione, e le devo dire, abbiamo saputo, siamo entrate in contatto con queste donne, sono nati dei rapporti straordinari che aiutavano non solo loro, ma anche noi, naturalmente. Oppure in Kosovo, Kosovo, dove siamo riuscite, questo come Nazioni Unite, siamo riuscite, immagini, oggi abbiamo il 28% dei politici kosovari sono delle donne, e questa è una battaglia che io portai avanti per 2 anni appunto a Pristina, che siamo riusciti alla fine a concretizzare. Donne straordinarie, serbe, albanesi di grande coraggio, quindi ecco, pensi che è proprio la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite, che come lei sa porta avanti appunto il ruolo della donna come strumento di pace a livello mondiale, ha proprio fa il compleanno in questi giorni, proprio la 1325 di 8 anni fa. Allora, io ricordo l'iniziativa del Sole 24 Ore, la Harvard Business Review ha debuttato giovedì 30 ottobre i 100 migliori articoli in CD-ROM. Ringrazio Gloria Guerrera in redazione, Alessandro Chiappini in regia. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it e vi do appuntamento al prossimo sabato. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.